Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Dal rapporto annuale del Censis divulgato oggi emerge che un italiano su sei teme la povertà, 8 milioni sono senza lavoro, i giovani umiliati e senza speranza, un paese ripiegato su se stesso. L'analisi del Censis ci fotografa più soli, egoisti e spaventati. Si parla anche di scarsa coesione sociale, di un ceto medio corroso dalla crisi e del rischio banlieue, le periferie degradate dove trionfano rabbia e violenza. Periferie come polveriere. Secondo me stiamo per affrontare un Natale senza tregua. Normalmente si parla sempre di tregua natalizia, si fermano a volte i combattimenti, si allenta la tensione, ci si sorride, insomma, sarà un'illusione, sarà una ritualità ormai svuotata di ogni significato, ma sotto Natale perlomeno si tenta di illudersi per qualche giorno che qualcosa possa per un attimo fermarsi delle cose che ci affliggono ogni giorno. Il Censis proprio qualche giorno fa esce invece con una sua ricerca sul fatto che il 60% degli italiani avrebbe paura di finire in povertà. Non è tanto il cambio di vita, è proprio la paura di finire in povertà. E questo crea un profondo stato depressivo. A questo aggiungo alcuni elementi che emotivamente non fanno che aumentare l'idea della stretta, del fatto che ci sia un Natale senza tregua. Io vi do soltanto degli spunti, poi vorrei questa mattina, come fosse un esercizio liberatorio, voi mi chiamaste all'800240024 e mi dicesse quali sono per voi i motivi per cui stiamo per affrontare un Natale senza tregua. Io forse questa mattina ho visto qualcuno che cercava una sorta di compensazione all'ansia, ho provato a infilarmi nella metropolitana che da Piazza di Spagna mi porta a Piazza della Repubblica, dove scendo per venire alla radio, era impossibile. C'era un fiume umano di persone che stava andando all'appuntamento con il Papa per l'Immacolata. Ecco, per loro la tregua è comunque un atto di fede, rivolgersi all'assoluto, al divino, a una figura quasi materna di Papa che sembra accogliere nel suo grande abbraccio tutte le afflizioni del mondo e mi sta bene, ma gli altri, per gli altri ci sarà un Natale senza tregua. In Svizzera, su conti cifrati, forse anche in Venezuela, intestati a prestanome ma anche a parenti ed amici, finivano là i soldi spremuti nella cuccagna degli appalti capitolini dalla cupola guidata da Carminati e Buzzi. Uno spallone era incaricato di trasportarli per conto della holding criminale. Così tanti che Luca Odevine, secondo le accuse, stipendiato con 5.000 euro al mese da Carminati, non sapeva nemmeno più quale conto utilizzare. Dalla gestione dei campi Roma al compostaggio dei rifiuti, dalla manutenzione del verde, affari per 60 milioni di euro, ma questi soldi andavano nascosti da qualche parte. I magistrati... Ecco, secondo me, uno dei primi motivi per cui per me è un Natale senza tregua. La terra di mezzo improvvisamente venuta alla luce, anche se chi viveva a Roma già aveva l'impressione che esistesse una terra di mezzo, che molto poco aveva a che fare di hobbit, di creature fantastiche. Erano creature molto poco fantastiche, si muovevano in un ambito limaccioso, truffaldino, mafioso, vessatorio, però su una fetta di umanità che in realtà meriterebbe tutt'altro trattamento. Si occupavano di campi nomadi, si occupavano di poveri, di indigenti, di disabili e si occupavano della pulizia delle città. Le persone più sporche, tra le più sporche, perché tutti siamo un po' sporchi, si occupavano della pulizia. La scoperta della cosiddetta cupola romana, che ogni giorno ci porta nuove sorprese, questa mattina si parlava di ex sindaci con valigioni di soldi che scappavano all'estero assieme alla famiglia, entriamo ormai nel campo fantastico. Mi affligge e mi dà motivo di pensare che sia un Natale senza tregua, perché se penso che le persone che con grandi sorrisi, grandi abbracci, grandi benedizioni di arcivescovi e di autorità con la fascia tricolore si occupavano proprio delle persone che sotto Natale sono quelle più nell'occhio della cronaca, altro movimento ipocrita. Avremo ancora il coraggio di far vedere i clochard alla stazione Termini con le brave persone che vanno lì e gli portano la bevanda calda? Avremo ancora coraggio di far vedere sotto Natale quei bei servizi con gli immigranti, con i poveri, con i bambini macilenti, con le persone che gli portano i pacchi di cibo, quando le stesse persone sono persone che si inquattavano la parte più cospicua del denaro pubblico che andava in quella direzione? Questo mi ha fatto tornare in mente questa mattina un eroe fantastico della mia scellerata giovinezza. È Superciuk, è il fantaeroe del fumetto Alan Ford che rubava ai poveri per dare ai ricchi. Superciuk era uno spazzino frustato, quindi anche lui si occupava di immondezza come la banda della terra di mezzo, anche lui andava dai baraccati, dai poveri, dai macilenti, dagli storpi e rubava quel poco che avevano per favorire i ricchi. Ecco, la banda di Superciucca per me uno dei motivi di maggiore afflizione. 800240024. Emilio, buongiorno. Salve, allora io ho ascoltato con estremo interesse il suo intervento e penso di essere, diciamo, chiamato in causa dal punto di vista emozionale e dal punto di vista pratico inerente all'argomento. Allora, io sono una persona sola al mondo, purtroppo ho perso mio padre 7 anni fa, che per me era... Quanti anni ha lei, Emilio? Io ne ho 57. Beh, è un ragazzo ancora. Io la ringrazio, però è molto più giovane di me, io che dovrei dire, scusi. Io mi sento, diciamo, già vecchio quando avevo 20 anni. Vabbè, è depresso allora. Sì, io ho una fortissima depressione. Vabbè, questo è sicuro. Deve cercare di curarsi il più possibile per vivere una vita compensata rispetto al suo problema. È un problema chimico, non è un problema di tipo trascendentale. Non è solo un problema chimico, è proprio un problema psicologico che mi accompagna giorno per giorno come se fosse un'ombra. Il problema è... Ma lo capisco bene, guardi, io ho molta esperienza familiare e personale di cose del genere, però le dico, se le dico che è un problema chimico, lo dico perché almeno si toglie ogni idea che esista un atomo opaco del male che l'abbia sommersa. Lei pensa, io devo solo compensare alcuni neurotrasmettitori, compensati quelli guardo il mondo diversamente, come quando mal di testa devo per forza prendere un cachè, o se ho il mal di schiena devo per forza farmi fare un massaggio terapeutico, capito? Se la vede così, secondo me la vede meglio, poi faccia come vuole. Sì, non basta. Diciamo, lei usa delle parole estremamente gentili per e molto gentili. Ma no, ma lo penso, non è gentile. Molto mirate. Guardi, se avessi io la certezza che lei è colpito da una sorta di sfiga divina, direi: guarda, il Padre Eterno ti ha puntato un dito contro, devi soffrire come Job. Ma non lo penso, se no lo direi, Ma anche se io ho tentato, diciamo, più di una volta di togliere il disturbo senza aggiungere altre... Ma no, ma che sono cavolo, ma guardi, la veda... No. Vabbè, se io non sono, guardi, non sono un medico, ci sono persone che hanno capacità di... Io dico semplicemente a una persona che apre oggi dicendo mi sento depresso, sono solo al mondo, dico guardi, c'è gente che sta molto peggio di lei e ha motivi molto... Sì, non guardi, è che voglio minimizzarlo. Sono andato anche in ospedale a curare gli storpi con volontariato, però questo non significa non che è bastato. Abbia risolto la situazione. Ma perché mi ha chiamato? Cosa si aspetta che le dica io? No, io sono rimasto impresso per il significato della trasmissione, che oggi il Natale non è più come quello di una volta, perché ci sono i problemi, aumenta la depressione, eccetera, la nostra situazione economica. E la paura e il senso di perdere materialmente parlando l'oggetto dei sacrifici, quindi entrare in una spirale di povertà, certo. Perché effettivamente questo è un elemento, è uno degli almeno elementi principali che portano una persona, almeno come me, a deprimersi ancora di più, è chiaro. Sì, esattamente. Su me si deprime anche chi era un allegrone prima in questa situazione. Però le posso dire una cosa, Emilio, certo. per inquadrarla storicamente. Noi, lei è più o meno la mia generazione, io faccio il fighetto, ma abbiamo 4 anni di differenza, non è poi tanta differenza, sono un po' più vecchio di lei. Siamo quelli che siamo nati con l'idea che si andava sempre in salita. Siamo figli di una generazione che ha visto la guerra, la fame, i bombardamenti, quindi sta molto peggio di noi, per cui anche avere semplicemente l'alberello, il presepe con qualche pacchetto sotto sembrava toccare il cielo con un dito. Quindi abbiamo sempre pensato che il mondo fosse quello, non abbiamo mai visto una guerra, sì, abbiamo passato gli anni di piombo, ma ci siamo già dimenticati, sono rimasti nella pelle soltanto di chi è morto, di chi è stato in prigione, di chi ha visto ammazzati i suoi cari, sono passati quelli, e pensavamo che il mondo fosse sempre così, in salita. Però il mondo passa dei momenti depressivi in senso generale, e oggi facciamo i conti col fatto che potremmo tornare a distanza di quasi 60 anni a quello status terrificante che ci raccontavano i nostri genitori per farci mangiare la fettina che a noi faceva schifo. Sia un po' più sorridente, se poi lo dice una persona che è sempre incazzato. Francesca, buongiorno. Buongiorno. Sì. sono un po' più sorridente io, anche se mando un grande abbraccio alla persona che ha parlato prima di me, perché evidentemente ne ha bisogno. Se volete vi metto in contatto, così faccio un bel regalo natalizio a Emilio. Volentieri, volentieri. Vede come il mondo presenta occasioni. Lei sarebbe già disponibile per incontrarsi con Emilio. Ad abbracciarlo, molto volentieri. Vede, Emilio già era pronto lì a buttarsi la finestra, c'è già una sconosciuta che l'abbraccerebbe. Dai. Volentieri, lo faccio regolarmente, anche perché anche io non lo fa per professione di abbracciare lì. Professione non si fa più nulla, si fa tutto per volontariato, almeno alla mia età, maledetta la vostra di generazione che lei citava. Perché la sua mia, qual è la che sua? Non so se coincide, non lo so, io ho 37 anni. Beh, potrebbe essere mia figlia, lo posso dire. Con sconsolata nostalgia, ma è così. Nella mia generazione c'è tutta questa certezza che di progresso non c'è stata. Ma che volete, siete ancora giovani, fate passare un po' d'anni. Che vogliamo, giustamente. E in realtà quello che è successo a me è che ho fatto una ventina di anni di lavoro già ormai, perché ho iniziato molto giovane e poi piano piano studiando mi sono specializzata. In ogni caso sono rimasta precaria infinitamente, sono arrivata oggi, che ovviamente la crisi ha abbattuto anche le mie piccole speranze. Quale sarebbe il regalo di Natale che la farebbe felice? Che le cambierebbe la vita? Ma io non ho bisogno di grandi regali, in verità, perché sebbene sia arrivata a una condizione abbastanza sotto la soglia di povertà, cioè vedo la soglia di povertà come un grande raggiungimento. Ma perché lei è ancora più povera di un povero? Sì, sono più povera di un povero, però non sono triste. Ma lo dice seriamente o lo dice come butardo? No, lo dico seriamente, riesco a... Ma guarda, io le credo, sa perché? Sono stato a colazione ieri con una commercialista, con dei professionisti, mi ha detto la mia ultima indicazione reddito è stata di 12.000 euro. Dice, in una parte Italia che non citerò per non gettare... L'anno scorso io ho dichiarato 5.400 euro. Questa è una professionista, laureata, specializzata. Questo per dirle un po' qual è la dimensione, però non sono disperata. Come vive? Anche lei con la pensione dei genitori, come questa signora che mi raccontava a me? Qualcosa i genitori sicuramente aiutano, e questo non è una cosa positiva, nel senso che ci si sente anche un po' però non è bello, non è cortese andare su alle generazioni precedenti per riuscire a vivere, però volevo semplicemente dirle questo: io sono sempre stata una gioiosa del Natale, mi piace il brillucichio, non frega più di tanto della qualità interna del concetto di Natale, però mi interessa molto tutto quello che gli sta all'esterno, tutto questo candore, anche se è simulato, mi piace, mi fa stare dentro. Una volta l'anno uno avrà diritto di pensare un attimo a qualcosa di allegro, giusto? Quindi sì, però in realtà io sono allegra tutto il resto dell'anno. Diciamo la verità, ma chi se ne importa dei pastorelli, di queste cose qua? Natale è bello che si fa festa. Mi ha fatto diventare più positiva, cioè trovo i meccanismi per vivere senza avere tutti questi fatiche e compromessi che provano tutti quelli che devono in realtà, che ci tengono a stare sopra quella famosa linea della povertà. Io ho trovato un modo per stare al mondo che mi riempie di gioia e che non mi fa snervare. Sono stata una lavoratrice, guadagnavo 1.900 euro al mese un tempo, però oggi sono una persona che che si organizza e devo dire che dispongo del mio tempo e credo di essere molto molto ricca di questo. Come vede, alla fine lei ha concluso in positivo, non è che voglio consolarla, figuriamoci, ma parlo con una persona che ha ancora davanti una fetta importante di potenziale di crescita. Lei può aspettare che la crisi passi, ancora sarà giovane, ancora sarà appetibile, ancora potrà trovare amici, amiche, occasioni di viaggio, potrà rivedere la risalita, ma probabilmente altre persone avranno il tempo di farlo, quindi la veda con tranquillità e serenità. Mi fermo un attimo, indicazioni del traffico, anche se oggi probabilmente molti se ne stanno fermi. Pare che il bambino abbia chiesto, questo è il racconto della madre, abbia chiesto queste fascette per svolgere un esperimento di scienza. E questa cosa la mamma l'ha raccontata in occasione della visita delle due insegnanti, le due maestre sono andate a trovare i genitori, insomma a far sentire la vicinanza della scuola. E la madre ha chiesto: è vero maestro che dovevate fare un esperimento con le fascette? La maestra dice: ma quale fascette? Ci sono fascette di elettricista. Prende forse al marito, rivolgendosi al marito. Dice: noi queste cose non le... Mi scrive adesso adesso un'altra commercialista dicendo non siamo tutte così, grazie a Dio ancora il nostro lavoro ci permette di vivere più che dignitosamente. Io parlavo di una situazione molto limitata, insulare, ecco, diciamo così, in cui probabilmente ci sono meno possibilità di incontro, di scontro, di transito e transizione. Ecco, avete sentito, un altro dei motivi che per me è indicativo di un Natale senza tregua. Nel Natale, nella sua versione iconografica, a volte anche più stucchevole, più caramelloso, ma che in fondo ci ha dato tante soddisfazioni in gioventù, era che il momento in cui si trovava riunita la famiglia. Ma noi abbiamo conferme continue che in realtà questo modello familiare di amore, di compattezza, di sussistenza, sussiste in realtà soltanto quando i vecchi devono dare le pensioni ai giovani professionisti e non ce la fanno più a tirare avanti. Sempre più facilmente entriamo nell'idea vera, presunta, allucinata, semplicemente ipotizzata, che le madri possano uccidere i loro figli. Il caso del piccolo Loris è esemplificativo. Non sarà sicuramente così, speriamo che non sarà così, ma l'ipotesi che viene ventilata in tutti i giornali sono i buchi nel racconto della madre e sono le fascette che la madre avrebbe portato a scuola, altra ritualità prettamente natalizia che ci ricorda quando avevamo i bambini piccoli, che la maestra ci diceva portate delle mollette da panni nuove, portate delle schifezze, bicchierini di carta, di plastica. I bambini facevano quei terribili lavoretti con le stelline, con le lucette, con gli strass appiccicati bruttissimi, che poi dovevamo far finta che fossero belli e li mettevamo magari nel salotto assieme alle palle di Natale lussuose, il legno lavorato che venivano dall'Africa lontana, che ci erano costate tanti soldi e tante fatiche. Beh, anche la fascetta di plastica serrafili può diventare uno strumento di omicidio materno, questa domanda che stanno facendosi tutti i giornali. E non vi basta questo per pensare che siamo in un Natale senza tregua? Sergio, buongiorno. Sì, Nicoletti, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Io ho chiamato per dire se c'entra questo, appunto, il caso di Loris, il caso di Roma, un po' tutto il resto. È come se stesse volando, lei sicuramente ha presente, la nottola di Minerva per Natale. Uh-huh. Vi spiega tutto, fa capire che non c'è più speranza. Voglio, la speranza sicuramente c'è, ma ai sogni difficili. Ma guarda, io alla fine, sotto il mio cinico ostentare pessimismo, sono ottimista, perché mi viene da sorridere mentre racconto questo. Accade questo, ma voglio che comunque le persone capiscano che può esistere uno sforzo personale individuale. Sì. Assolutamente sì, ma io a 31 anni. Se no saremmo sopraffatti, saremmo. A 31 anni mi piace anche vederla un po' dal punto di vista letterario, la tristezza che poi forse può portare anche una rinascita. In questo momento è il momento dei sogni, perché per tutti il Natale è il momento in cui un po' ci si guarda allo specchio, ci si immagina che ci possa essere qualcosa di bello e di migliore per il domani. C'è molto freddo, non soltanto dal punto di vista climatico in questi giorni, c'è un freddo che entra nel cuore, la gente ha le gambe spezzate e i giovani come me hanno le gambe ancora più spezzate, perché guardano l'esempio delle persone più grandi e si rendono conto che c'è tanto cinismo nel cuore, tanto, inchiostro nero. Ora però sta a noi, alla trasmissione come la sua, che chiederei di avere una mezz'ora in più ogni giorno, perché è veramente... Vedi, io mi accontento di mezz'ora invece, sto tranquillo lo stesso, uno non deve mai chiedere tutto di quello che ha. Certo, mi piacerebbe mezz'ora un'altra mezz'ora. Sì, sai, anche a me, certo, però che devo fare? Tiriamo avanti, cioè non è che ci possiamo sparare, certo, in testa per una mezz'ora. No, mai, mai, assolutamente. Sempre la uso al meglio, capito? Come diceva quello, piccolo ma sincero, è così, ognuno fa quello che può. Assolutamente sì, io dico solo che questa trasmissione è la resa dei conti per tutti coloro che l'ascoltano, in positivo e negativo. Sì, ma adesso non volevo un pompino, volevo semplicemente mi dicesse il suo motivo per cui è Natale senza tregua questo. Per questo, perché è un Natale in cui si vede disvelata la realtà senza tregua. Ma per fortuna, io, i momenti di intrepida spietatezza sono i momenti migliori, in cui uno può separare il bene dal male, i veri amici dai finti amici. Grazie. Sai cosa le dico? Sì. Che è il momento in cui le persone che hanno un sogno o hanno qualcosa da realizzare devono avere più coraggio di farlo, perché tanto sotto non c'è niente, si Bravo. Può solo salire. Non si rischia niente, si può soltanto perdere il nulla che si ha. Grazie. Claudio. Sì, pronto? Spero che chiami anche un'ascoltatrice prima della fine, perché sennò è sbilanciato. Sì, Claudio, ecco qua. Mancando il lavoro si diventa poveri. Sì, sopravvive. Io per fortuna il lavoro ce l'ho, anche mia moglie così, e andiamo, cioè, si sopravvive anche discretamente. Il problema è chi non ha il lavoro, chi non ce l'ha non sopravvive. E poi quando si sentono certe notizie, Roma capitale, Roma mafiosa, cascano le braccia, perché tutti quei soldi che in teoria dovevano andare a soccorrere persone bisognose, povere, vanno a intascare, a ingrassare le tasche di chi è... Lo dice a me, che conosco decine se non centinaia di famiglie con ragazzi disabili, disabili che sentono dire non c'è il non ci sono soldi per fare quel progetto, non ci sono soldi per il pulmino del figlio, non ci sono soldi per fare un corso pomeridiano, una casa per tenere i ragazzi il pomeriggio e fargli fare qualcosa, e poi c'erano soldi per portarsi le valigiate all'estero, ammesso che questo sia vero, o cose del genere. Viene da piangere, non c'è tregua per questo. Sì, però insiste tanto su queste cose, uno fa il demagogo. È facile anche sentirsi buoni e belli puntando il dito contro le schifosezze altrui. Ma sono convinto che noi siamo il paese che se appena può diventiamo furbi anche noi, per cui non so, secondo me non c'è, sono pessimista, ma non c'è molta speranza, nel senso che giustizia non funziona. E quindi non c'è speranza, quindi lei e sua moglie con i vostri stipendiucci che vi permettono di vivere, cosa farete? Non lo so, io andrete in Kenya, andrete in Sud America, dove in Kenya, perché abbiamo già 50 anni così, però io ho già preparato i miei figli di dire andiamo all'estero, in un paese più serio del nostro, tipo nonostante tutto la Germania, tipo In Germania mica vi ci vogliono, è difficilissimo prendere la cittadinanza, non è che la danno così. Bisogna sapere il tedesco meglio dell'italiano, ci vogliono 5 anni di residenza, è una cosa complicata. In Inghilterra, proprio serietà da parte di politici. In Inghilterra? Che pacchetti, che usi il pugno di ferro contro i cattivi, non quelli che li assolva per decorrenza di termini o perché non hanno commesso il fatto dopo 10 anni magari, finché daremo ragione a chi delinque o comunque chi si comporta male o comunque non viene condannato. Quindi per lei diciamo la tregua sarebbe uno Stato forte, una giustizia che abbia certezza di pena e una maggiore equità sociale? No, elenchiamoli i motivi che in realtà li vedreste come un possibile regalo sotto l'alberello. Una giustizia che funzioni, che dia ragione al cittadino, semplicemente che dia una ragione, che non debba aspettare 10 anni per avere ragione dei suoi diritti. Quindi il suo problema principale è la giustizia. Le leggo un messaggio, un altro ascoltatore, un bel Natale davvero, quando dietro ogni angolo trovi un africano, un cinese, un magrebino, un pakistano, un arabo, che non c'entrano nulla con le renne, gli abeti del presepe, a cui non frega una mazza del Natale, anzi, per cui il Natale è uno dei motivi per cui ci odiano. Beh, anche a me non è che delle renne me ne faccia un problema esistenziale quotidiano. Questo per far capire che in realtà i cittadini non sono poi molto diversi dalle persone che governano, se questo è il senso di un signore che mi scrive, e sto cercando in qualche maniera di trarre motivi di saggezza dal fatto che in questo momento siamo tutti, chi più chi meno, passando un periodo di crisi. Il suo problema è che il pakistano, l'arabo, il cinese non hanno il senso profondo del portato religioso altruista del Natale, quindi non amano le renne, non amano Gesù Bambino, non amano i pastorelli. Grazie Valerio Rocchetti, grazie Fabrizio Tonti, che mi hanno permesso in questo giorno di festa comunque di portare a casa una trasmissione. Non l'avrei mai detto, perché ero rimasto bloccato nella metro con i pellegrini che andavano dal Papa. A domani.